messo l'uomo nero a far la guardia nei prati recintati dove cresce l'erba voglio. Poi di noi si sono presi cura, noi siamo i figli della loro paura. Si sono posti come buon esempio per non guardare in faccia il loro stesso fallimento. Thank you. sacrifici che abbiamo fatto per te. Farai